Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, buon 2010 a tutta la redazione di Radio 24. L'inizio dell'anno è sempre il tempo dei bilanci, ma soprattutto delle promesse. Che cosa ci riserverà Radio 24 quest'anno? Ci può anticipare qualche novità? Emanuela. Cara Emanuela, il 2010 sarà sicuramente un anno di importanti novità per Radio 24, che tuttavia terrà fede alla sua missione, quella di offrire un'informazione completa, tempestiva, aggiornata e, se possibile, sapientemente critica. Ovviamente nelle diverse forme su cui si articolano i singoli programmi, ma sempre cercando un rapporto diretto e continuo con gli ascoltatori. Novità ce ne saranno anche presto. Significativi ritocchi al palinsesto partiranno dal 18 gennaio e tra pochi giorni inizieremo a svelare le novità. Posso garantire comunque che non cambieranno i nostri consolidati conduttori e non cambierà la formula dei giornali radio, dei reportage, degli speciali curati dalla redazione. Ci saranno comunque ritocchi e aggiornamenti. Con la passione di sempre. Gentile direttore, ci ha fatto caso? Google ricorda tutti gli anniversari e tutte le persone celebri. Un giorno sì e uno no, ecco apparire un'immagine a taroccare simpaticamente il logo del celebre motore di ricerca. Da Pavarotti a Gandhi, a Marconi, fino alle più oscure figure di scienziati, come l'inventore dell'alfabeto Morse o il padre dell'Esperanto. Tutti i personaggi celebri trovano spazio nel sito web più famoso del mondo. Solo di una persona Google non si ricorda mai. Gesù Cristo. Collegatevi al sito di Google in questi giorni. Buone feste, ci dice Google, ma solo con l'immagine di pupazzi di neve, renne o palme con le palline. Oggi, giorno di Natale, ci sta il simbolo pacifista degli anni 70 e un missile. E Gesù Cristo? Dov'è finito? Buone feste, ma nessun accenno a chi sia la causa di queste feste. Ecco come la censura laicista e anticristiana può arrivare al delirio e al ridicolo. Angelo. Caro Angelo, ha sorpreso anche me quell'immagine di cartoline banali e quella scritta Buone feste che si leggeva nel marchio di Google. Un marchio che di volta in volta ha celebrato anniversari, giorni di feste e ricorrenze. Ma non parlerei di censura, perché nessuno ha imposto a Google di non parlare di Gesù Bambino. È stata una scelta, dettata da un disarmante ossequio verso il politicamente corretto. Ognuno diventa libero di festeggiare il Natale come vuole e per ragioni del tutto personali. Buone feste, senza chiedersi il perché. Google, in fondo, ha perso un'occasione contraddicendo la sua stessa funzione. Un motore di ricerca non dovrebbe fermarsi alle apparenze, ma cercare appunto la realtà dei problemi. E la realtà è che 2000 anni fa è nata una persona che ha cambiato le prospettive dell'uomo, di ogni uomo, che ha cambiato la storia, anche per chi non se ne accorge, che ha dato un senso all'amore dell'uomo. Buon Natale, quindi, anche se il giorno di Natale è passato, perché Buon Natale non vuol dire che auguriamo solo di passare un sereno giorno di Natale, ma vuol dire che il Natale sia qualcosa di vero e significativo per ciascuno di noi. Un augurio, allora, indubbiamente impegnativo. Meglio rifugiarsi in un banale Buone feste. Le feste di famiglia possono trasformarsi in veri e propri agguati alla serenità familiare e parentale. Sono sicura che la disinibizione alcolica, tipica di queste a volte insensate abbuffate, sia uno degli elementi scatenanti dei litigi. Alcuni stratagemmi per evitare la tragedia. Non eccedere nei brindisi, spegnere la TV specie se sta trasmettendo il TG, allontanare i quotidiani, usare quelli di partito per accendere il caminetto, mantenere una rispettosa distanza di sicurezza da argomenti sociopolitici se già si sa che le opinioni sono nettamente divergenti, mettere il segnaposto del vecchio nonno comunista impenitente il più lontano possibile da quello del moroso della figlia, rampante consulente finanziario con cravatta verde in bella mostra. Di cosa parlare? Ce n'è. Tempo, cucina, spettegolamento su parenti non presenti o vicini di casa maleducati, lavoro. Solo che se uno non ci sta attento, la politica può entrare come il prezzemolo in ogni discorso, dal contratto effimero del nipote alle strane abitudini del vicino di casa straniero. Avendo un padre incapace di capire se e quando al momento di parlare e soprattutto come parlare, io e le mie sorelle in queste occasioni abbiamo sviluppato un vero sesto senso. percepiamo il momento in cui una conversazione prende una piega pericolosa. Annusiamo l'odore della parola frase incriminata quasi prima che venga espressa dall'interessato, intuiamo la possibile ricaduta, ci scambiamo un'occhiata complice e dirottiamo la conversazione con ogni genere di stratagemma, del tipo «Papà, che ne dici di una bella partita a briscola?» Meglio litigare per la donna di picche che per il re di denari. Silvia. Ho cercato di seguire attentamente le vostre trasmissioni dedicate al razzismo nel calcio, che poi è lo specchio della società italiana. E sapete cosa ho scoperto l'altra sera? Eravamo alla solita partita di calcio tra amici. Un sano sport che serve ad alimentare lo spirito e scaricare i nervi, oltre alla compagnia. Si faceva riscaldamento e si commentavano le partite di Coppa. Spunta all'improvviso il nome di Balotelli e io, scherzosamente, mi paragono a lui come modo di giocare. E molti dei miei amici mi rispondono «Ma tu non sei negro». Ero stupito. Non volevo replicare per non cadere nella discussione o peggio litigare, ma quelle parole mi hanno deluso. Non pensavo che intorno a me ci fosse il razzismo. Pensavo alla tolleranza. Evidentemente questa piaga si allarga a macchia d'olio, fagocitando anche chi si nasconde dietro un doppio petto o la semplice giacca in jeans. Mi è capitato di vedere un programma TV con gli scimmioni in primo piano che gridavano e inveivano contro le persone di colore, contornati dai soliti cori assurdi. Erano stati inquadrati in primo piano. Possibile che nessuno potesse fare nulla nei loro confronti? Ma io, in un'Italia così, che ci faccio? Si va dal perbenismo e dal buonismo, che sinceramente non sopporto e trovo ipocrita, alla violenza incontrollata e incontrollabile, in un'Italia che non è nemmeno capace di schierarsi contro i reati palesi. Io sono juventino di nuova generazione, ma c'è gente che ancora è capace e ha il coraggio di difendere Moggi. E parlo di gente che dovrebbe essere, per così dire, illuminata, vista la cultura incorporata negli anni e negli studi. Mi chiedo, ma con i Corona, i Briatori, i Moggi e i loro reati e atteggiamenti ben poco educati, ma cosa bisogna fare oggi per emergere? Delinquere? A 35 anni sono ancora in gavetta, perché ho una passione. Ma tra caste e raccomandazioni so benissimo che la mia via è stretta e con ostacoli da centometrista. Ho sempre pensato che se con un cucchiaino provo a spostare una montagna, non ce la farò mai in una vita. Ma se qualcuno mi aiutasse, prendendo esempio, ce la potremmo fare in poco tempo. Ma qui di volontà ce n'è ben poca. Giacomo. A proposito della gestione degli enti locali, si parla sempre di togliere risorse agli amministratori inefficienti, ma questo penalizza la comunità e i cittadini e si affossano situazioni già gravi. Che ne pensate di penalizzare solo gli amministratori? In qualsiasi azienda, se sbaglia il management, si penalizza il manager. Non si sanziona la clientela o l'azienda stessa. Marco. In questi giorni mi frulla in testa il motivetto pubblicitario «A Natale puoi fare tutto quel che non puoi fare mai». La melodia è orecchiabile, ma l'autore del testo avrà ricevuto un compenso per aver scritto tale baggianata? Cosa puoi fare a Natale? Quello che vuoi? Provo a cantare come la penso. A Natale devi fare tutto quello che gli altri si aspettano da te. Sì, perché con la fregatura dell'essere più buoni, Natale è diventata la festa dell'ipocrisia. Fare il regalo obbligato, fingere di apprezzare quello riciclato, accettare un invito che declineresti volentieri, condividere pranzi e cene con parenti altrimenti inesistenti, a volte prepotenti, se non addirittura serpenti. Il 25 dicembre è un giorno come gli altri, facciamo solo finta di essere diversi. Il 26 dicembre torniamo a come eravamo il 24 dicembre. Natale è solo l'intervallo tra i due tempi del film, il film che si gira ogni anno della nostra vita. Se a Pasqua si celebra il sacrificio di Gesù, a Natale si celebra il nostro sacrificio. Ci viene chiesto di portare un pesante fardello contenente troppo cibo, troppi regali, troppo consumismo, troppi ingorghi, per non parlare delle scenate del consorte stressato, della gaffa del regalo dimenticato, di quello schifoso vin brûlé della Croce Rossa e delle recite scolastiche da morire tutti asfissiati. E noi lo portiamo, questo fardello, per il bene dei bambini, perché è la loro festa, senza pensare che forse tutto questo troppo ai nostri bambini non fa neanche tanto bene. Silvia. Gentile direttore, premetto che sono abbastanza nauseato dalla politica attuale e da tutto quello che ci gira attorno. E per me, che da giovane l'attività politica l'ho fatta davvero, è una vera grande delusione.

Non le ho mai scritto, forse perché penso che la mia lettera non venga letta, come fanno tanti, o forse solo per timidezza. Io sono un'operaia siciliana che lavora in una delle poche grosse fabbriche ormai presenti in Sicilia. Lo stipendio è basso e i sacrifici sono tanti. Tanti se si vuole finire di pagare la casa, perché le banche, al posto che dare un mutuo, sembra che diano oro colato. Ma la cosa che mi offende di più, e ci tengo a premettere che io non sono razzista e penso sempre agli italiani immigrati e quello che hanno passato o passano, è vedere rumeni, albanesi, indiani andarsene in giro in Mercedes, BMW o altre auto nuove e fare la bella vita, fare quello che vogliono, e noi operai non arrivare più nemmeno al 15 del mese. Tutto ciò non è corretto, per chi come me paga volente o nolente le tasse ed è quasi ridotta in povertà. Mi chiedo, caro direttore, non siamo quasi vicini al precipizio di questo stato di balocchi dove non funziona nulla e dove si è ritornati al nobile e al vassallo? Grazie e cordiali saluti, Valeria. Gentile Valeria, le sue osservazioni mi sembrano sinceramente un po' troppo drastiche e perentorie. In Italia non funziona nulla? Su via, certo, i servizi pubblici non sono ai massimi livelli e possono sicuramente migliorare, ma in Italia, salvo situazioni di emergenza, si viaggia bene sulle autostrade, sui treni, sugli aerei. I servizi sanitari, anche qui, salvo eccezioni, sono ai livelli dei migliori paesi del mondo e garantiscono un'assistenza di base a tutta la popolazione. E riguardo all'immigrazione può essere vero che ci sono immigrati che sono diventati ricchi, ma se lo hanno fatto rispettando le leggi e pagando le tasse, hanno tutti i diritti di acquistare anche un'auto di lusso. Questo non vuol dire che gli operai possano, anzi debbano guadagnare di più, non solo in Sicilia, ma in tutta Italia. Guadagnare di più è un'aspirazione di tutti e in un modo particolare di chi ha una famiglia, soprattutto se numerosa. Allora è necessario rafforzare le imprese perché possano migliorare le condizioni di lavoro di chi vi opera. Ma bisogna anche insistere per una politica fiscale che sia di aiuto e non di punizione verso la famiglia. Basterebbe copiare la Francia, dove gli assegni familiari possono arrivare a raddoppiare anche lo stipendio. Purtroppo, in Italia, di riforme fiscali che favoriscano i giovani, le donne e le famiglie non si parla, né tantomeno le hanno fatte i governi di centrodestra e quelli di centrosinistra. La nostra vilipesa carta costituzionale all'articolo 21 garantisce implicitamente anche il diritto di satira e di cronaca. Tali sono i necessari corollari del più ampio diritto di libertà. La libertà, come ogni altro diritto riconosciuto dall'ordinamento, necessariamente deve incontrare un limite, che è tracciato dalla continenza e dalla funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Pertanto, laddove l'autore del pezzo satirico si spingesse oltre, finirebbe inesorabilmente nell'offendere la dignità e il decoro altrui. La satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica, come accade per la vignetta o per la caricatura. Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta al parametro della verità, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Non può invece essere riconosciuto il diritto dell'esercizio del diritto di satira nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica. Così si esprime la Suprema Corte di Legittimità con sentenza numero 28411 del 2008. In questo contesto si inserisce il libro a fumetti del vignettista Alessio Spataro, che raccoglie una lunga serie di strisce contro il ministro Giorgia Meloni. Questa viene rappresentata come una donna sporca che passa tutto il tempo parlando con topi, facendo sesso con i suoi ammiratori dediti a perversioni dannunziane. In ogni storia ci sono peti, escrementi, water e mosche. Viene da chiedersi se questo atteggiamento sia da ricondurre alla classe politica del governo attuale, a tutte le donne in genere, o solo alla persona del ministro Meloni, preconfigurando quindi un attacco su base personale che nulla ha a che vedere con il diritto di satira, di cronaca e di espressione artistica. Silvio. Queste erano alcune lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.